Il mio nome è Lorenzo, potrebbe non aver senso, ma da quando sono nato dico quello che penso, dico quello che vedo, mi guardo in giro, utilizzo questo ritmo nero, funky, duro e carico di passi, e su di lui ho costruito sintassi e frasi e storie e strada dove vivo. Muovi la mano con la quale io scrivo e dammi la carica, dammi l'energia, molta cattiveria, poca melodia. 1, 2, 3, via! 1, 2, 3, via! Questa non vuole essere una forma di poesia, ma è rap, semplicemente senza pretese. Un suono è una parola che arriva palese, si muove, non c'è discussione. Non è la musica che fa la rivoluzione, al massimo può essere la colonna sonora, un modo per accendere un passaparola. Il microfono si accende e va sull'adrenalina. Clap your hands, everybody! Tacca, tacca, tacca, tacca, taccami la spina! Questa è la mia parola che si fonde col basso, il suono cittadino del rap e del funky. E no, che non ti stanchi, no no, che non ti stanchi. Ritmo e parola, pane con panatico, supercari, fragilisti, suono molto pratico e violento al 100%. Boom! Muove la mia dialettica col mio divertimento e mi fa venire voglia di dire alza, alza! Ascolta il suono del basso che incalza, voglio sentirlo di più. Alza, alza! Ascolta il suono del basso che incalza, la musica che faccio mi serve come scudo. Mi barrico dietro al microfono per non sentirmi nudo di fronte alla mia insicurezza. Non ho né presunzioni né manie di grandezza, non faccio comizi né faccio demagogia. Io sono un accumulatore di energia che poi ritorna fuori sotto forma di adrenalina. Tacca, tacca, tacca, tacca, taccami la...